La Corte dei Conti rischiava una spirale negativa. Incinta, 16 anni, futuro papà sarebbe un ragazzo albanese con piccoli precedenti penali e genitori chiedono ai giudici che la costringano ad abortire. Emergenza smog, Milano si ferma nel primo giorno di stop alle auto, la protesta dei commercianti per noi è una mazzata, dicono, questo periodo dell'anno è cruciale. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il vertice di Bruxelles è alle sue ultime battute, nel pomeriggio le conferenze stampa di rito. Ma di fatto quello che è successo questa notte con il no del premier inglese Cameron è l'avvio di un'Europa a due velocità. E allora ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Più che due velocità è una velocità più la Gran Bretagna si sta profilando, almeno dopo i commenti iniziali del mattino che lasciavano intendere un'Europa spaccata in due, in realtà ci si sta rendendo conto che è un'Europa contro la Gran Bretagna, anche perché l'Ungheria, che insieme alla Gran Bretagna aveva detto no a questo, diciamo, e poi lo spiegheremo meglio, fiscal compact, cioè questo nuovo trattato intergovernativo che in qualche modo rafforza la politica di coordinamento di bilancio e politica fiscale, questo nuovo trattato verrà adottato praticamente da quasi tutti tranne Londra, restano fuori per il momento solo tre paesi, Ungheria, Svezia e Repubblica Ceca, ma più che altro per temporeggiare più che per una reale convinzione, e quindi quello che sta emergendo è proprio una Gran Bretagna di fatto isolata. E allora sentiamolo Cameron. If I couldn't get adequate safeguards for Britain, Cameron questa mattina ha affermato, prima di venire a Bruxelles, ho detto che se non avessi potuto ottenere garanzie adeguate per la Gran Bretagna nel nuovo trattato europeo non l'avrei firmato, ciò che è sul tavolo non è nell'interesse di Londra, per questo non l'ho firmato. Tutte le decisioni prese stanotte derivano dall'esistenza dell'euro, la Gran Bretagna è fuori e ci resterà, altri paesi che vi appartengono dovranno rinunciare a parte della sovranità. La differenza tra i due blocchi, dice Cameron, hanno causato tensioni. Per questo chiediamo garanzie, quando queste non possono essere offerte preferiamo che tutto ciò venga realizzato attraverso accordi intergovernativi esterni al trattato, questo è nell'interesse nazionale britannico. Così David Cameron. Io aggiungo anche che per quanto riguarda questo famoso fiscal compact, questo nuovo trattato, c'è voce che i paesi aderenti, 17 dell'Eurozona più 6, si riuniranno a gennaio per meglio definirlo, l'idea di concludere entro marzo e varrarlo nella forma definitiva, di fatto iscriverà nelle costituzioni dei paesi membri che i conti devono essere in ordine, al massimo è concesso un deficit strutturale che non eccede il mezzo punto percentuale all'anno, quindi molto rigore. Sergio, su questo. Le reazioni di Francia e Germania, i due protagonisti poi di questo vertice? Ma diciamo che la Francia con Nicolas Sarkozy ha chiaramente puntato il dito contro Cameron dicendo che i nostri amici inglesi, con un po' di ironia, non hanno consentito che si modificasse il trattato esistente, invece ora ascoltiamo Angela Merkel. Wir werden eine neue Fiscalunion schaffen. Ha affermato: costruiremo una nuova unione fiscale per l'euro, un'unione stabile nella quale porremo freni all'indebitamento, porremo sanzioni automatiche più forti, rafforzando il ruolo della Commissione. Gli stati dell'Eurozona devono recuperare credibilità, ha detto la Merkel, con le decisioni odierne abbiamo raggiunto l'obiettivo. Introdurremo anche più rapidamente il fondo salva stati permanente. Penso, dice la Merkel, si tratti di un risultato molto importante. Abbiamo imparato dagli errori e ora possiamo avere una maggiore coerenza. Questo è il nostro contributo per rendere l'euro più sicuro. Aggiungo anche che nel breve periodo l'idea è quella di fornire attraverso prestiti bilaterali al Fondo Monetario Internazionale ben 200 miliardi di euro da parte dei paesi membri dell'Eurozona, ma non solo, i primi contribuiranno per 150 miliardi, e c'è anche la decisione di anticipare l'entrata in vigore del Fondo Permanente Salva Stati, l'ESM, 500 miliardi di dotazione nel luglio del 2012. E ora ascoltiamo invece. Grazie Sergio, lo ascolteremo in un'altra edizione, grazie mille a Sergio Nava, nostro inviato a Bruxelles. E invece torniamo sul ruolo dell'Italia, perché anche l'Italia a parte sua ha provato a convincere gli inglesi a desistere dallo strappo, sentiamo. se l'opera di Mario Monti dietro il compromesso notturno a 23 cercherà di salvare l'euro con una disciplina di bilancio più rigida. Ieri sera, prima della maratona notturna conclusasi alle 5 del mattino, il premier italiano ha sondato il premier inglese David Cameron sulla sua disponibilità a una modifica anche leggera dei trattati europei. Ma il sì di Londra restava fortemente condizionato alla possibilità di porre il veto su tutte le norme europee relative ai servizi finanziari. Di più certo non potevamo fare, e questo il commento che si è sentito all'alba nella delegazione italiana. Alle 15 il presidente del Consiglio Monti terrà una conferenza stampa. Solo allora conosceremo come si è svolta questa maratona notturna. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E la rottura del fronte unitario europeo avviene paradossalmente proprio nei giorni in cui il trattato di Maastricht compie 20 anni, uno dei pilastri, insomma, dell'Europa. La firma in realtà è del 92, ma è proprio in questi giorni, 20 anni fa, che i vertici si riunivano per mettere a punto il trattato. Per l'Italia c'era anche l'allora ministro degli esteri Gianni De Michelis, sentiamolo al microfono di Simone Spezia. Il ruolo dell'Italia in generale, noi che la rappresentavamo, soprattutto di Andreotti, visto che era un vertice di capi di Stato e di Governo, fu decisivo per arrivare alla conclusione, perché tra l'altro con l'Inghilterra non c'era solo il problema dell'euro, ma c'era anche il problema delle cosiddette norme sociali, e anche su quello facemmo un'eccezione che poi in realtà è stata superata quando poi in Inghilterra cambiò il governo da conservatore a laburista. E naturalmente da questo punto di vista, come si può dire, eravamo tutti convinti che in quel momento l'Europa aveva dato la risposta più compiuta e completa ai nuovi problemi che si ponevano per il mondo, perché non era difficile cominciare a pensare che nel corso degli anni successivi la configurazione del mondo come conseguenza della fine della guerra fredda sarebbe cambiata, e in qualche modo noi pensavamo di avere con Maastricht anticipato delle regole, dei modelli di nuova governance per il mondo destinate inevitabilmente a passare da bipolare a globale, che sarebbero andate nella direzione giusta. Ed ora sentiamo come reagiscono questa mattina i mercati alle notizie arrivate dal vertice europeo. In diretta con noi Deborah Rosciani. Il mercato azionario si accontenta delle decisioni prese fino a questo momento, in attesa dei nuovi appuntamenti odierni. Dopo una partenza con il segno meno, che rafforzava peraltro i ribassi molto accentuati di ieri, la borsa a metà mattinata ha cambiato direzione. Adesso tutti gli indici sono in rialzo, e anche piuttosto importante, perché Milano guadagna il 2,42%. Ricordiamoci sempre che ieri ha perso più del 4%, per cui recupera appena a metà strada. Parigi più 1,78, Francoforte più 1,64, Londra, indifferente a tutto quello che le capita attorno, guadagna appena lo 0,89%, e soprattutto si rafforza anche l'euro sul dollaro, che riscopre e ritrova la soglia di 1,34. Molto galvanizzati i titoli del settore bancario, nonostante le nuove richieste dell'EBA, l'autorità bancaria europea, di ricapitalizzazioni. Intesa più 5%, Unicredit più 5%, bene anche UbiBanca più 3%, bene anche i titoli industriali Buzzi Unici, MFIA, Fiat Industrial, sono tutti in guadagno di 4 punti percentuali. Il termometro che osserviamo di più, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, stamattina è partito con un forte rialzo a 466 punti base, adesso è sceso leggermente al di sotto dei 450, però rimane sempre su livelli un po' di disturbo per gli investitori. Il tasso di rendimento del titolo decennale è oltre il 6,5%. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Proseguono intanto alla Camera le audizioni sulla manovra cosiddetta Salva Italia. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Banca d'Italia, Corte dei Conti ed enti locali, queste le ultime audizioni sulla manovra economica, firma Mario Monti. Mercoledì scorso era stata la volta di Istat, sindacati ed imprenditori. Il decreto resterà in commissione bilancio sino a lunedì, poi passerà all'aula di Montecitorio per il varo atteso entro la prossima settimana, quindi il via libera del Senato prima di Natale. Quanto all'audizione del governatore Visco, è un giudizio sostanzialmente positivo quello che arriva dal numero uno della Banca d'Italia, considerato, dice Visco, il contesto economico interno e dell'area euro. Certo questo spiega ancora Visco, la componente affidata a maggiori tasse è prioritaria, di qui l'effetto restrittivo della manovra sul prodotto interno lordo -0,5 nel prossimo biennio, in aumento poi la pressione fiscale che arriverà al 45% del PIL. La Corte dei Conti poi, il ricorso prevalente a manovre che impiegano lo strumento fiscale potrebbe concorrere a determinare una spirale negativa, c'è il rischio di impulsi recessivi, spiega il presidente della magistratura contabile Giampaolino, e gli effetti si avranno anche sull'inflazione. Sentiamo. L'aumento dell'aliquota IVA e delle accise sui carburanti si trasmetterà, pur in un contesto di stagnazione della domanda, sulla dinamica dei prezzi al consumo, con un effetto di maggiore inflazione che prudenzialmente può essere stimato di almeno un punto percentuale. Anche la Corte dei Conti poi, dopo i tecnici della Camera, esprime dubbi sul fatto che si riesca a conseguire il gettito atteso dai capitali scudati. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietto, una notizia che apprendiamo e leggiamo insieme a voi. A Roma un pacco bomba è esploso in un'agenzia di Equitalia. Al momento non abbiamo altri particolari. Si terrà martedì presso la Regione Lombardia un vertice anti-smog presieduto dal ministro Corrado Clini. Sono stati invitati gli amministratori pubblici dell'intera pianura padana con l'obiettivo di programmare misure strutturali di contenimento delle polveri. Intanto, oggi e domani, Milano si ferma. Tutti a piedi a Milano per il blocco totale alle automobili, tranne quelle elettriche e alle moto. I livelli di inquinamento che martedì erano scesi sotto la soglia di allarme infatti sono tornati a crescere nel capoluogo lombardo in maniera preoccupante. Dunque resta confermata anche per domani dalle 10 alle 18 l'ordinanza del sindaco Giuliano Pisapia. Scuole chiuse, riscaldamenti nelle abitazioni abbassati di un grado. E stop per i diesel Euro 3 prorogato anche fino al 23 dicembre. Potenziati i mezzi pubblici, 500 corse in più per quelli di superficie, 340 per la metropolitana. I negozi potranno chiudere a mezzanotte, ma i commercianti protestano. Simon Paolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente di Asso Mobilità. Si tratta di una cura da cavallo per un sistema commerciale che in questo momento proprio non ne aveva bisogno. Avevamo chiesto un gesto di attenzione, di buona volontà in un momento dell'anno importante che è quello che si avvicina al Natale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Accordo ridotto al vertice europeo per il no degli inglesi. L'accusa di Sarkozy a Cameron, tutta colpa vostra. La risposta del premier inglese, non rinunceremo mai alla nostra sovranità. Il governatore di Banca Italia Visco, con la manovra la pressione fiscale salirà a circa il 45%. Per la Corte dei Conti rischiamo una spirale negativa. Esplode un pacco bomba in una sede Equitalia a Roma, un ferito. E ripartiamo proprio da questa notizia perché c'è qualche dettaglio in più. Ora un pacco bomba è esploso ferendo appunto una persona a Roma in via Andrea Millevoi presso un'agenzia di Equitalia. Il plico è stato recapitato via posta e durante l'esplosione ha ferito alla mano il direttore della sede. Indaga naturalmente la Digos, vi daremo aggiornamenti se ne avremo nel corso di questo GR24. E ora invece parliamo della conferenza sul clima in corso a Durban in Sudafrica. Siamo infatti alle ultime battute. Qui con me c'è Gigi Donelli, che ringraziamo. Quali conclusioni, Gigi, si profilano? Diciamo pure nessuna, perché la verità è che la verità è che la conferenza sul clima sta dimostrando ad ogni edizione, siamo dunque arrivati a COP17, la complessità di questi meccanismi di accordo su cui poi si sofferma in questi anni quello che è il fattore crisi. Quindi si parla di riduzione in un momento in cui tutti cercano posti di lavoro e già è complesso. Lo era appunto anni fa col COP15 nell'ordinatissima Copenaghen, dove con grande partecipazione, vi ricordate, c'era Obama che arrivava, era ancora diciamo un presidente nuovo, con grandi speranze. Beh, insomma, l'idea che oggi nella situazione attuale a Durban in Sudafrica si possa arrivare a dei risultati francamente appare dubbia in questo momento. Certo, un documento sarà prodotto, anche perché il 2012 è l'anno di scadenza, e questo non è una novità, del protocollo di Kyoto. In questo caso noi peraltro abbiamo il ministro ministro Clini, che segue appunto per l'Italia una trattativa da una posizione di fortissima competenza. La realtà è che le distanze sono enormi, gli interessi continuano ad essere divergenti e probabilmente, a mio avviso, c'è questa complessità nella complessità che è proprio la struttura di questo vertice. Chi ha partecipato a questi incontri si rende conto che sono delle enormi fiere campionarie in cui migliaia di delegati di ogni interesse assolutamente legittimo si presentano. Insomma, non un luogo facile per trovare un accordo. Grazie, grazie a Gigi Donnelli. Noi torniamo in Italia parlando di frequenze TV, perché prende corpo l'idea di sospendere l'assegnazione gratuita di 6 frequenze televisive nazionali. Diversi partiti, invece PD e IDV in testa, premono per arrivare ad una gara al miglior offerente. Allora facciamo chiarezza con il collega del Sole 24 Ore, Marco Mele. Buongiorno Marco. In ballo, Marco, ci sono 16 miliardi. Sulle 6 frequenze, allora diciamo 16 miliardi è il valore delle frequenze, tutte le frequenze utilizzate dalle televisioni che vediamo, nazionali e locali, secondo il risultato dell'asta che c'è già stato a favore degli operatori telefonici. L'asta ha dato 4 miliardi, di cui 3 miliardi per le frequenze televisive, da qui i 16 miliardi. Queste 6 frequenze che vengono assegnate gratuitamente, nazionali, ad altrettanti operatori nazionali, valgono 2 miliardi e mezzo, diciamo sui 2 miliardi e mezzo di euro, che comunque non sono pochi, valgono sempre secondo i valori di quell'asta, attenzione. Quindi diciamo che parliamo di 2 miliardi e mezzo di euro come valore potenziale di queste frequenze, che invece col processo in corso vengono date gratuitamente. Il problema principale è che vengono date gratuitamente soprattutto le migliori di queste 6 frequenze a chi è già più forte, cioè a Rai e Mediaset. Però Berlusconi dice: se invece questa gara sulle frequenze si facesse non a costo zero, andrebbe deserta. Se il paese scegliesse di dare le frequenze a un costo minore, o anche con un'asta però facilitata, con dei favori, con degli incentivi, insomma, in qualche modo favorendo le televisioni, anche gratuita, però deve essere fatta per aprire il mercato a più concorrenza, che poi è la filosofia del governo Monti, cioè aprire a più soggetti. Il problema è che l'assetto del mercato televisivo oggi in Italia è fatto di pochi soggetti che fanno tutto, che hanno la rete di impianti, che fanno i programmi e che concentrano e che sono troppo forti e concentrati, con pochissima concorrenza. Quindi bisognerebbe fare o una gara o anche un'assegnazione gratuita, però riservata a nuovi entranti sul mercato, per aumentare concorrenza e pluralismo. Grazie, grazie a Marco Mele, collega del Sole 24 Ore. Ci sarebbero degli italiani dietro al pacco bomba arrivato ieri alla Deutsche Bank a Francoforte? Quelli della Federazione Anarchica Informale, Romano Prodi li conosce bene. Furono loro a far esplodere 2 cassonetti vicino alla sua casa bolognese quando era presidente della Commissione Europea nel 2003. Così come li conoscono bene l'addetto alla corrispondenza dell'ambasciata svizzera a Roma e il funzionario di quella cilena, rimasti feriti un anno fa dall'esplosione di 2 plichi arrivati nelle rappresentanze diplomatiche. Anarchici che colpiscono spesso nel periodo di Natale e che questa volta hanno indirizzato il loro pacco bomba alla sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte, destinandolo al capo azienda, Ackermann. Una busta a formato gigante sulla quale risultava come mittente la Banca Centrale Europea, che sarebbe esplosa all'apertura e che la FAI ha rivendicato. Nella lettera di rivendicazione si legge: 3 esplosioni contro banche e banchieri, zecche e sanguisughe. Gli inquirenti tedeschi sono alla ricerca degli altri 2 ordigni. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I genitori di una giovane di Trento si sono appellati al Tribunale dei Minori per costringere la figlia sedicenne ad abortire. Chiedono anche ai giudici di impedire alla figlia di vedere il fidanzato e futuro padre, un ragazzo albanese di 18 anni con piccoli precedenti penali. Una situazione anomala, spiega Melita Cavallo, presidente del Tribunale dei Minori di Roma, intervistata da Valentina Furlanetto. In genere la ragazza si reca dal giudice tutelare per abortire. Qui abbiamo un'anomalia, cioè ci sono i genitori che chiedono l'aborto della figlia e la figlia che vuole tenere il bambino. ma i genitori non possono impedire la nascita di un bambino, perché la nostra legge tutela la maternità e tutela l'infanzia. Nella sua lunga esperienza le è mai capitato un caso simile? Sì, sono capitati casi del genere. Ho avuto molti casi in cui i genitori hanno chiesto che la bambina venisse trasferita lontano da Napoli, quando lavoravo a Napoli, in una struttura, ed erano d'accordo poi che la struttura avesse provveduto all'aborto, ma noi naturalmente abbiamo chiarito che questo non è possibile, che la bambina, se non è in grado di tenere il suo neonato, potrà darlo in affidamento, potrà darlo in adozione. Non sarebbe mai stata aperta la bara di Mike Bongiorno, trafugata da un cimitero del Novarese, ritrovata ieri a Vittuone, nel Milanese. Siamo soddisfatti perché abbiamo riconosciuto la bara, queste le prime parole dei figli di Mike Bongiorno, Michele e Nicolò. Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di parenti e accoliti del boss Michele Zagaria e di aziende a loro riconducibili. Intanto a Casa Pesenna, dove è stato catturato il boss, in molti si chiedono chi darà loro lavoro adesso. Il sindaco Fortunato Zagaria al microfono di Valeria De Rosa. Da quello che ho capito e percepito, anche parlando pure io con delle persone, non è che loro non sono contenti di quello che è accaduto, loro non sono contenti in generale, hanno un senso di sfiducia nei confronti dello Stato perché si sentono abbandonati, ma sotto l'aspetto però di quella che è soprattutto la mancanza di lavoro. C'è questo clima, no, di sfiducia generale. Un clima di sfiducia a cui la camorra si sostituisce in gran parte a quelle che sono le mancanze dello Stato. Ma guardi, se lei vuole fare un ragionamento generale, posso essere d'accordo con lei sicuramente, ma Casa Pesenna è un paese piccolo dove non è che gli interessi economici possono essere tali da sopperire all'eventuale mancanza di lavoro, ma assolutamente no. Ora le vicende giudiziarie che vedono protagonista l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sentito questa mattina come testimone al Tribunale di Milano. Anche questa mattina ha varcato i portoni del Palazzo di Giustizia di Milano, stavolta però lo ha fatto in veste di parte lesa. Silvio Berlusconi era infatti chiamato a deporre nel processo che vede imputato l'ex direttore di Oggi, Pino Belleri. Il giornalista è accusato di ricettazione e violazione della privacy per la pubblicazione delle ormai famose foto che ritraevano l'ex premier dentro Villa Certosa in compagnia di alcune ragazze nel 2007. Berlusconi ha spiegato più volte che sarebbe stato impossibile fare quelle foto senza entrare nella sua proprietà, proprietà che ha definito come un vero e proprio parco delle meraviglie. Il cavaliere ha anche spiegato che per lui è una normale abitudine quella di accompagnare per mano i suoi ospiti all'interno di Villa Certosa e non si è risparmiato poi una battuta sulle sue continue presenze al Palazzo di Giustizia. Ormai ho un ufficio dentro il tribunale, ha detto Berlusconi, devo affrontare 38 udienze fino a gennaio, non ho problemi se dovrò tornare a testimoniare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È il momento del nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Dichiarare soltanto a metà un reddito da lavoro dipendente significa a tutti gli effetti non pagare le tasse dovute, cioè entrare a pieno titolo nel girone degli evasori. E il fenomeno è molto diffuso, ma ora la pacchia potrebbe finire perché il fisco si è organizzato grazie all'accertamento parziale e automatizzato, lo stesso strumento d'indagine che vale anche per chi nasconde del tutto un reddito da lavoro subordinato. Simonetta Neri, Direzione Centrale Accertamenti Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate. Qual è la banca dati di cui ci serviamo? Ovviamente sono i modelli presentati dai sostituti d'imposta, il modello 770, nel quale sono presenti i dati relativi ai propri sostituiti, ai propri dipendenti. Se il datore ha dichiarato e il dipendente no, o se lo ha fatto scontandosi lo stipendio per pagare meno tasse, arriva un avviso. Io al contribuente andrò a dire guarda che il tuo sostituto d'imposta ha certificato, mi ha trasmesso un reddito che tu avresti corrisposto nell'anno d'imposta pari a questo reddito, non è stato da te dichiarato, te lo sto accertando, questo è un maggior reddito che io vado ad accertare, su questo mi corrisponderai delle imposte. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ci trasferiamo sulla neve che non c'è, in realtà a Courmayeur per Noir in Festival, e ci colleghiamo con la nostra Marta Cagnola. Marta. Eh sì, Piera, la neve non c'è, quindi niente bianco ma tanto nero qui a Courmayeur, e il tema del nuovo festival di Courmayeur è l'apocalisse. È stato anche il tema degli incontri di oggi. Scrittori come Antonio Scurati, studiosi di cinema come Gianni Canova hanno dibattuto su un tema d'attualità, non solo per la profezia Maya di cui si parla con più o meno ironia da tempo, ma anche, perché no, a causa della crisi finanziaria e della percezione della fine di un'epoca. Ma l'apocalisse è anche tema letterario e cinematografico, soprattutto l'11 settembre, sia che si mette in scena il momento della fine come nell'alba del giorno dopo, sia della catastrofe già avvenuta come in 28 giorni dopo. Ci stiamo tutti già immaginando come sopravvissuti, ci si chiede, ma ci sono anche i film in concorso, oggi 3 e questa sera il tributo a Stephen Frears. Se non ci sono domande, da Courmayeur. Grazie, grazie Marta, ti ringraziamo moltissimo e noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al prossimo GR24 che è alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.